X24, la storia. Singolare testimonianza di Cristo, misteriosa reliquia, affascinante mistero, provocazione all'intelligenza, come ha detto Giovanni Paolo II, è la Sacra Sindone. Lo scorso 19 aprile, dopo 5 anni, Monsignor Cesare Nosiglia, custode della Sindone, ha aperto le porte della Cattedrale di Torino, dove è custodito il telo che, secondo la tradizione cristiana, avrebbe avvolto il corpo di Gesù. Un mistero che attende la visita di milioni di pellegrini da tutto il mondo, compresa quella di Papa Francesco, prevista per il 21 giugno prossimo. La Sindone è un mistero che ha coinvolto la scienza, la fede e che ha prodotto centinaia di pagine di divulgazione scientifica e di analisi teologiche. Un mistero che continua a dividere e appassionare. Oggi su Mix24 ricostruiamo, con l'aiuto del professor Baima Bollone, esperto di medicina legale e presidente onorario del Centro di Sindonologia, la storia della Sindone, ripercorrendo le tappe che l'hanno portata a Torino e gli interrogativi scientifici e teologici legati al lenzuolo di Cristo. La Sindone misura 4 metri e 36 centimetri di lunghezza e 1 metro e 10 centimetri di larghezza. Il lino è tessuto in un unico pezzo con una tecnica particolare che conferisce alla stoffa il suo caratteristico aspetto a spina di pesce. La Sindone è cucita su una tela bianca d'Olanda applicata come sostegno. Lungo il perimetro c'è un bordo di raso azzurro appesantito da lamine metalliche. È ricoperta da una seta rossa avvolta in un tamburo di legno e posta dentro un reliquiario. Nella fascia centrale, la Sindone contiene accostate l'immagine anteriore e posteriore del cadavere irrigidito di un uomo alto con lunghi capelli e barba. Quello che è certo è che si tratta di un lenzuolo funerario che è servito ad avvolgere i cadaveri. Professor Baima Bollone, quel cadavere poteva essere quello di Gesù Nazareno? La risposta è certamente affermativa sulla base delle conoscenze scientifiche che si sono accumulate nell'ultimo secolo. Quali erano queste conoscenze? Può essere più preciso? Per due ragioni. Da un canto, l'autenticità come reperto archeologico è scontata sulla base di indagini scientifiche specifiche. Cito il sangue, cito i pollini, cito il tipo di manufatto, cito la cucitura che c'è in corrispondenza del margine superiore. E poi per il fatto che questo reperto, che in sé è autentico come epoca e come provenienza geografica, trova delle corrispondenze molto precise con la narrazione dei 4 Vangeli canonici. Ma quali sono le prime tracce della Sindone? La tradizione ci porta ad Edessa, l'attuale città di Urfa, in Turchia. Lì la Sindone avrebbe fatto la sua prima apparizione. La leggenda narra che il re Abgar, ammalatosi gravemente, avrebbe mandato a chiamare Gesù. Ma Gesù da Abgar non è mai andato. E così avrebbe mandato una sua immagine. Fin qui la leggenda, che però si intreccia con la storia. Lo storico Ian Wilson, infatti, afferma che nell'antichità la Sindone era avvolta in modo tale da far vedere solo il volto e che questo volto e quello di Edessa sarebbero la stessa cosa. Agosto 944. La città di Edessa viene attaccata dagli eserciti bizantini. La Sindone viene trafugata e portata a Costantinopoli. Quindi, professor Baima Bollone, si tratta di una delle tante reliquie portate a Costantinopoli? Certamente no. La più importante, comunque, per l'attenzione che le dedicano i documenti, per i riferimenti degli autori, per l'esistenza di un rito, perché sappiamo che era dispiegabile. Dalle fonti storiche si sa che nel 1147 Ludovico VII, re di Francia, in visita ufficiale a Costantinopoli, può venerare la Sindone. Nel 1204, in conseguenza alla presa di Costantinopoli da parte dei crociati, molte reliquie vengono disperse e numerose sono le testimonianze di fedeli che dicono di aver visto la Sindone. si sviluppa una specie di mercato nero delle reliquie. La Chiesa reagisce scomunicando chiunque, al seguito delle crociate, manometta o trattenga delle reliquie. Di qui forse il lungo silenzio che segue anche sul telo di Cristo. Professore, non è possibile che questo lungo silenzio sia dovuto al fatto che la sindone a quell'epoca non veniva considerata autentica? Se ci riferiamo ai secoli precedenti all'arrivo a Costantinopoli, certamente no. Il cristianesimo non era la religione in quelle sedi geografiche più popolare. Successivamente al 1204 c'era da giustificare un possesso che non era possibile. Le tracce della sindone si perdono completamente per un secolo e mezzo fino al 1353, anno in cui ricompare Aléry in Francia nelle mani del cavaliere Goffredo di Charmy. E qui si apre un altro mistero. Nella famiglia di Charmy c'è un templare morto sul rogo nel 1300 e i templari, secondo la tradizione, veneravano il volto di un uomo con la barba. Riprendiamo da qui dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24, oggi stiamo ripercorrendo le tracce lasciate dalla sindone nel tempo. Nel castello di Templecombe in Inghilterra è stato trovato un pannello con un dipinto simile in tutto e per tutto al volto della sindone. Ascoltiamo ancora il professor Baima Bollone. Ha molti particolari che ricordano la sindone. La simmetria dei sopraccigli, il fatto che la guancia destra sia più gonfia, diremo così, della controlaterale, la tumefazione del labbro superiore, la lunghezza del naso, lo spazio tra naso e sopracciglia, i capelli che cadono su una spalla e vanno dietro all'altra e le mancanze, le perdite di sostanza della barba. Tenuto conto del fatto che il pannello venne ritrovato in quella che probabilmente era la casa dell'addetto religioso di una caserma templare, tenuto conto del fatto che lo si volle nascondere ma conservare e tenuto ancora conto del fatto che le dimensioni sono quelle di un coperchio e dimensioni della sindone ripiegata, hanno dato origine alla teoria che questo fosse un contenitore della sindone ripiegata in quattro su se stesso. Questa sarebbe una delle prove che la sindone è stata nelle mani dei templari. Il fatto che la sindone fosse in mano dei templari è un elemento in più nella valutazione di attendibilità storica del sudario. Non tutti sono favorevoli a questa tesi, ma certo essa giustifica ampiamente tre particolari. Primo, il lungo silenzio storico. Secondo, il trasferimento dall'area di Costantinopoli in Europa. E terzo, le modalità di ricomparsa a Lirey in Champagne nel 1353. Quindi è un elemento in più? È certamente un elemento in più. 1353. La sindone viene data ad Anna di Lusignano, moglie del duca Ludovico di Savoia, che la custodisce a Chambéry, dove viene allestita un'apposita cappella. Tuttavia sarà spostata più volte e portata in varie città della Francia e del Piemonte in occasione di eventi di guerra che costringevano di volta in volta i Savoia a trasferirsi in luoghi più sicuri. Nel 1506 Papa Giulio II permette il culto liturgico e pubblico alla Sacra Sindone, approvandone la liturgia per la messa e il rito sacro. Nella notte tra il 3 e il 4 dicembre del 1532 scoppia un incendio nella sacrestia di Chambéry. Sono le suore Clarisse ad avere l'incarico due anni dopo di riparare i danni subiti dal lenzuolo. Tra il 16 aprile e il 2 maggio, mentre si alternano giorno e notte in preghiera, le consorelle riparano i danni con delle toppe a forma di triangolo. Per per compiere il suo voto per la liberazione di Milano dalla peste, San Carlo Borromeo nel 1578 si pone in viaggio verso la Sacra Tela. Emanuele Filiberto di Savoia pensa di abbreviare il viaggio all'arcivescovo di Milano e trasferisce la sindone di qua dalle Alpi, da Chambéry a Torino. La sindone, un secolo dopo, viene collocata sopra il Duomo di Torino in una cappella costruita dall'architetto Guarino Guarini sull'altare del Bertola. Professor Baima Bollone, quando la sindone entra nella cappella del Guarino nel Duomo di Torino, le reali informazioni scientifiche che si hanno sul telo di Torino sono a zero, è così? No, almeno un'opera scientifica c'è già in due edizioni, quella di Alfonso Paleotto, arcivescovo di Bologna. Il botanico svizzero Max Frey negli anni 70 opera alcuni prelievi di polvere dalla sindone allo scopo di indagare sull'origine dei pollini presenti sulla stoffa. Ascoltiamolo. La presenza del polline di queste piante, che crescono esclusivamente nella zona della Bibbia e nella regione desertica circostante, ci permettono di raggiungere una sola conclusione, e cioè che durante un periodo della propria storia la sindone è stata esposta all'aperto in Palestina. A Gerusalemme, secondo Frey, cresce una pianta, la sueda, che sembra possedere lo stesso polline prelevato dalla sindone. E poi ancora il Paganum Armala, un altro tipo di pianta presente tra Gerico e il Mar Morto. Ma il professor Giovanni Riggi di Numana, insieme ad altri studiosi, nutrono oggi una serie di dubbi proprio sulle ricerche di Frey. La significatività di questa ricerca è molto modesta, secondo me. Cominciai ad avere qualche perplessità nel momento in cui incrociai nella ricerca microscopica elettronica espansione il polline di una pianta morta e sepolta nel Cretaceo, quindi qualche milione di anni fa. E mi chiesi se per caso la sindone, visto che possedeva questo polline, fosse stata presente anche in quell'epoca. E con questo sistema, sicuramente, avendo definito che ci sono 55 polline diversi, molto buono, molto significativo, sono 55 polline che di provenienza dell'area medio orientale, mi sta benissimo. Ma se ce ne fosse uno in mezzo a 100.000 polline che vengono dalla Scandinavia, mi cambia tutto. Ma c'è sulla sindone un polline che ha provenienza diversa da quella medio orientale oppure no? La risposta è affermativa, ci sono dei polline europei della pianura padana. Insomma, l'analisi dei polline ha aggiunto o no informazioni sulla sindone e sulla sua datazione? Sul suo percorso geografico, e ha confermato la tradizione: Gerusalemme, Anatolia, Costantinopoli e successivamente Europa. Secondo l'analisi palinologica, la sindone è realmente un reperto che risale alla Palestina dell'anno zero? Sì, nel senso che conferma la tradizione. Tra le singolarità rinvenute sul telo vi sono delle colature di sangue. Che si tratti di sangue è stato provato scientificamente. E poi ancora, l'immagine che appare osservando la sindone è quella di un volto asimmetrico, con dei capelli lunghi e delle tumefazioni a livello delle arcate sopraccigliari, dello zigomo destro e delle labbra. Su tutta la superficie corporea si osserva una quantità di singolari lesioni che dovrebbero corrispondere sul cadavere a delle chimosi. Come dice il linguaggio tecnico medico-legale, chimosi figurate, perché sono l'impronta dello strumento che le ha prodotte. Lo strumento che avrebbe prodotto le chimosi corrisponde al tipico flagello romano. La frusta, composta da diverse strisce di pelle alle cui estremità sono attaccate delle piccole sfere di piombo. Ascoltiamo ancora Baima Bollone. Se noi accostiamo le estremità metalliche fatte come due palline unite da una piccola sbarretta, come un manubrio del ginnasta, all'immagine sindonica, osserviamo una singolare corrispondenza che ci conferma nell'idea che si tratti di lesioni effettivamente da flagellazione. E poi la sovrapposizione dei due arti superiori in corrispondenza del pube. Si vedono delle colature ematiche le quali si dipartono dal polso sinistro, dove si osserva una soluzione di continuo che suggerisce la breccia cutanea di una ferita da punta, e qui si osservano due colature alle quali fanno seguito le altre ben visibili in corrispondenza sia dell'avambraccio sinistro sia del controlaterale. Tuttavia la mano sinistra copre il polso destro e quindi non si può osservare se, come è del tutto verosimile proprio per la presenza di analoghe colature, anche sul polso di destra c'è quella ferita da punta. L'interpretazione di queste ferite è agevole, si tratta delle tracce dell'inchiodamento della crocifissione. Sulla causa della morte di Cristo si avanzano due ipotesi: collasso causato da una posizione rigida e fissa, e l'altra è che il gravare del peso del corpo sugli arti inferiori provochi una immobilizzazione del torace con susseguente asfissia. La diagnosi del professor Baima Bollone è che sull'uomo della sindone si siano verificate entrambe le cose, e cioè un collasso ortostatico terminale in corso da asfissia meccanica da sospensione alla croce. La sua diagnosi di morte ricavata dalla sindone coincide con la tradizione cristiana? Totalmente, nel senso che si tratta di un soggetto che è morto in croce con una determinata sintomatologia. Insomma, quanto l'indagine medico-legale sulla sindone coincide con la narrazione dei fatti riportati dai Vangeli? Ha dimostrato l'assoluta coincidenza. Quindi la sindone racconta una storia di flagellazione? Certamente sì. Racconta anche una storia di crocifissione? Certamente sì. E anche una storia di resurrezione? Perlomeno può essere compatibile. Se il medico legale fosse richiesto di datare il telo sindonico, quale sarebbe la sua risposta? Nessuna difficoltà a riferirla agli avvenimenti storici della crocifissione alla quale ci riferiamo. Con la storia della sindone riprendiamo dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24 con la nostra indagine sulla sindone. Stiamo ripercorrendo la storia del telo che secondo la tradizione cristiana avrebbe avvolto il corpo di Cristo, una reliquia che divide il mondo tra laici e credenti, ma che è soprattutto oggetto di attenti studi scientifici. Uno dei massimi esperti di sindone è il professor di medicina legale Baima Bollone, a cui a partire dagli anni 70 viene affidato il delicato compito di effettuare un esperimento proprio sulla sindone. Ascoltiamolo. Mi viene concesso di prelevare i fili, i piccoli fili, da alcune sedi. Alcuni di questi servivano per confronto, cioè da sedi non macchiate, altri invece erano prelevati da macchie che si pensava essere sane. Su questi fili ho eseguito le consuete indagini del laboratorio medico-legale, quelle che sempre impieghiamo a fini forensi, e sono con esse riuscito a stabilire che certamente sulla sindone esiste del sangue. Questo era il primo passo, si trattava di sapere se era effettivamente sangue umano. Allora, impiegando altre tecniche, che sono quelle che tutti i giorni usiamo per analisi legali, ho potuto dimostrare che le macchie sulla sindone sono non solo di sangue, ma che sono lasciate da ognuno. Dunque, non sono solo tracce di sangue, ma si tratterebbe di sangue umano. Il biologo molecolare Victor Tryon arriva ad un'altra conclusione. Ascoltiamolo. Non c'è possibilità di errore. Il campione analizzato contiene DNA di un uomo. I laboratori di ricerca di tutto il mondo deducono se si tratta di un uomo o di una donna dall'assenza di un qualche elemento. Noi invece abbiamo utilizzato un nuovo gene dei denti, appena sviluppato, che crea i codici per il sangue in modo differente se si è maschi o femmine. E abbiamo ricevuto una risposta molto chiara. C'era un segnale dal cromosoma X e uno dal cromosoma Y, il che significa che la risposta è inconfutabile. Il DNA presente sulla sindone è quello di un uomo. Dunque il sangue presente sulla sindone è analizzato da voi, è sangue umano maschile, è così? Certamente sì. Ma questo sangue potrebbe essere sangue di un uomo crocifisso a Gerusalemme nell'anno zero? Ipotesi è corretta. Le indagini ematiche compiute fino a questo momento possono confermare l'ipotesi che quello presente sulla sindone sia il sangue di Cristo? Anche se non ne abbiamo dei campioni, esiste questa possibilità concreta. Quindi non possono al contrario confutarla? Non si può confutare non essendoci un campione di confronto. È possibile ipotizzare un nuovo protocollo di ricerca sulla sindrome? Certamente, si potrebbero prelevare delle crosticine di sangue, guardare all'interno, vedere se si tratta sempre della stessa persona, del cadavere della stessa persona, e datare questo sangue con i metodi più moderni. Il 25 maggio 1898 un avvocato torinese, Secondo Pia, scatta una prima fotografia durante l'ostensione della sindone che si tiene a Torino in occasione dell'esposizione di arte sacra. Dopo aver risolto i problemi tecnici per la messa in posa, si precipita nella sua camera oscura per sviluppare negativi. La visione dei negativi è scioccante. Ai suoi occhi, invece che apparire l'immagine negativa, appunto, appare l'immagine positiva di un uomo. È possibile che la sindone sia una riproduzione operata da mano umana? Escluso nella maniera più radicale. Cioè, non è possibile che sia l'opera di un artista? No, perché manca il colore, perché mancano i confini della figura, perché non c'è traccia di direzionalità all'analisi elettronica. Neanche di un artista geniale che sappia superare queste difficoltà? Direi proprio di no. Quindi è possibile o no che la sindone sia un falso medievale? Escluso, ripeto, nella maniera più radicale. Sulla palpebra dell'occhio destro del volto dell'uomo della sindone c'è l'impronta di una piccola moneta, come è noto fra gli scienziati che hanno studiato la sindone. Le analisi hanno portato alla conclusione che si tratti proprio di una moneta risalente ai tempi di Tiberio. Ma tra i dubbi degli scienziati resta il fatto che manchi una moneta simile dall'altro lato, cioè dal lato sinistro. Eppure guardando la sindone non può non colpire la vista di un'immagine tondeggiante in corrispondenza del sopracciglio sinistro. Le indagini scientifiche, attraverso riproduzioni tridimensionali, avrebbero dimostrato l'esistenza di questa impronta. Professor Baiman Bollone, dunque, sulla sindone è stata ritrovata l'immagine di una moneta? Di due monete, una in corrispondenza delle palpebre di destra e una in corrispondenza del sopracciglio sinistro. Queste due monete risalgono a quale epoca? Al 30 d.C., al 30 della nuova era, insomma. La presenza della moneta è coerente con le informazioni in nostro possesso sulle forme di sepoltura dei cadaveri di quell'epoca? In realtà no, non c'è documentazione di un uso giudaico di mettere delle monete sulle palpebre dei loro morti. E allora la presenza di una moneta coniata da Tiberio permette una datazione precisa della sindone? Lascerebbe supporre l'intervento romano anche nella sepoltura e non solo nella crocifissione. Aggiunge qualche informazione sull'identità dell'uomo sepolto in quel sepolcro e avvolto in quel sudario? Certo, rende più verosimile ciò che già si sa. L'immagine della moneta è stata recuperata grazie a quale tecnica di analisi? A analisi informatiche e più esattamente di tipo eidomatico. Quindi, secondo la scienza informatica, l'uomo avvolto nel sudario di Torino era certamente un uomo crocifisso. È così? La risposta è affermativa, con decisione. Un uomo crocifisso secondo le tecniche usate a Gerusalemme nell'anno 30? Secondo le tecniche della crocifissione romana e quindi applicate a Gerusalemme nell'anno 30 della nostra era. Un uomo sottoposto anche a flagellazione? Certamente, perfino nel volto c'è la traccia di un colpo di flagello in corrispondenza del dorso nel naso che è stato individuato e definita grazie alla valutazione informatica. Quali sono le coincidenze tra le informazioni evangeliche e i riscontri informatici sulla sindone? L'informatica ha consentito di definire meglio ciò che viene narrato dai quattro Vangeli canonici. Per esempio, ci dà contezza di una quantità di traumatismi contusivi al volto che permette di analizzare singolarmente. È stata fatta una comparazione tra questi riscontri informatici e altri documenti relativi ad altre crocifissioni? In realtà non è stato possibile, perché la sindone è un unicum. Quindi non ci sono risultati in questa direzione? Non ci sono risultati in questa direzione. Sulla sindone è stata identificata la presenza di aloe e mirra. Esperimenti hanno dimostrato che gli aloni dell'aspetto seghettato lasciati dall'acqua sulla sindone si formano solo in una stoffa preventivamente imbevuta di aloe e mirra. Tali sostanze erano usate in Palestina ai tempi di Cristo per la sepoltura dei cadaveri. Ascoltiamo Mario Moroni, esperto numismatico, Baima Bollone e Giovanni Rigidi in Umana. Possiamo dedurre che una formazione naturale dell'immagine è possibile. L'importante è che ci siano aromi, presenza di aromi e parte di sostanze ematiche sul volto. L'evaporazione cadaverica ha un alto contenuto di urea, la quale si scinde con formazione di ammoniaca. L'ammoniaca si lega con l'aloe determinando delle macchie colorate, color marroncino. Nelle lunghe ricerche di spettrometria che abbiamo fatto sia in Italia che soprattutto nei laboratori di Los Alamos, ma anche alla Western Connecticut University, non abbiamo avuto la fortuna di incontrare né aloe né mirra. Dal canto mio posso dire che su tutta l'area della sindone sono evidenti delle tracce di aloe e di mirra, come dimostrano gli esami che sono stati fatti da me e da altri ricercatori. La natura fisico-chimica di questa immagine macchia è abbastanza chiara. Non riusciamo assolutamente a capire come sia venuta ad essere. Tutte le ipotesi che sono state fatte finora hanno qualche difetto, cioè per tutte le ipotesi c'è un qualche dato che è in contrasto con loro. All'origine dell'immagine della sindone si sono ipotizzati anche dei fenomeni di radiazioni di breve durata, come un lampo, cioè una momentanea esplosione di energia. Professor Baima Bollone, l'immagine della sindone è dovuta a un fenomeno di esplosione di una grande energia in un tempo enormemente piccolo? Siamo al di fuori delle competenze medico-legali ed entriamo nel campo della fisica. Tuttavia, molti ricercatori sono orientati in questo senso. Insomma, per capire quell'immagine, si è formata in seguito a una reazione di natura nucleare, questo? Alcuni lo sostengono, io non ho ragioni per dire il contrario e certamente i dati medico-legali nella loro significatività nulla apportano questi problemi. Questa per lei sarebbe una spiegazione plausibile circa la formazione di quell'immagine sul telo sindonico? Come medico legale non lo posso dire. Sarebbe compatibile con la tradizione cristiana? Probabilmente sì. Questa eventuale esplosione nucleare potrebbe essersi verificata in coincidenza con quel mistero che la tradizione cristiana chiama resurrezione. La medicina legale non è competente a valutare questi problemi. Ma uno studioso di sindologia da tanti anni come lei, come si sbilancerebbe? Beh, può anche vedere con favore delle ipotesi di questo genere, anche se non provate. Uno degli esperimenti più discussi che ebbe risalto internazionale quello del 1988. Ne parliamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24. Nell'88 la sindone viene sottoposta a uno degli esperimenti ancora oggi più discussi. Il prelievo dei campioni avvenne il 21 aprile dell'88 nella sacrestia del Duomo di Torino, effettuato da Francesco Testore, docente di tecnologia dei tessuti presso il Politecnico di Torino, e Giovanni Rigidi in Umana, microanalista. Presenti tra l'altro all'operazione anche il cardinale Ballestrero con 4 sacerdoti, Luigi Gonella, l'allora rappresentante dell'Accademia Pontificia delle Scienze, i fotografi e un cineoperatore. La tecnica usata è quella radiometrica del carbonio 14, che dovrebbe portare ad una datazione del tessuto. Secondo il professor Bollone, l'errore di questo esperimento è alla nascita, ovvero il prelievo del tessuto da analizzare sarebbe avvenuto in una parte troppo inquinata della sindone. Ascoltiamolo. Mi ribello poi all'idea che sia stato fatto un solo prelievo e per giunta in uno dei punti certamente più inquinati e lesionati della sindone. Così gli risponde il professor Testore. Comunque, il problema dell'inquinamento, che era senz'altro scarso o nullo in quella zona, non influisce assolutamente i risultati delle prove a radiocarbonio, perché risulta che il massimo di percentuale di elementi inquinanti è molto inferiore allo 0,1-0,2%. Pertanto non sposta assolutamente la datazione. È stato infatti asportato un piccolo pezzettino in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro, dove certamente c'è una grossa perdita di sostanza e dove certamente ci sono delle macchie nerastre, facilmente spiegabili perché in quel punto si sono applicate per secoli le mani dei vescovi e degli altri personaggi che esponevano la sindone dai balconi, dalle finestre o dai luoghi dove avveniva l'ostensione. Il luogo prescelto fu ubicato vicino alla presa campione di Rice, si trova in fondo all'estremità, una delle due estremità del lenzuolo, ma non nelle parti laterali dove effettivamente c'è stata nei secoli la manipolazione, perché evidentemente nessuno tocca la parte terminale centrale da cui noi abbiamo prelevato il campione, ma soltanto le parti laterali. Il professore Franco Testore effettua poi la prima operazione, e cioè pesare il frammento, che risulta di 478 mg. Poi viene diviso in tre parti, 52 mg, 52,8 e il terzo 53,7 mg. Ed è subito polemica. Coloro i quali hanno eseguito il prelievo hanno scritto in pubblicazioni scientifiche dati diversi, cioè non hanno indicato sempre lo stesso peso nelle stesse dimensioni del prelevato e non sono neppure state in grado di indicare come è stata suddivisa la striscia, fornendo ora un valore ponderale, ora un altro valore ponderale. Ancora Franco Testore. Questi pesi non soltanto sono stati trascritti immediatamente e poi pubblicati su una relazione presentata a un simposio a Parigi l'anno successivo, ma sono stati ripresi con un film che è durato per le 15 ore di tutta l'operazione. Sono stati dichiarati tre pesi diversi. Questi pesi non corrispondono a quello che si vede sulla bilancia automatica che pesava il materiale al momento dei prelievi. Essendoci preposti di dare non meno di 50 mg per laboratorio, preposto perché potessero fare due o tre prove ciascuno, allora si decise di tagliare quello più piccolo, perché tagliare quello di 155, farne di 51-52 preciso era quasi impossibile e allora non volevamo dare dei frammenti o delle briciole. Cosicché il più piccolo è stato diviso in tre parti, due uguali e una un po' diversa. Esattamente uno dei due era di 52,0 mg, un altro 52,8 mg e il terzo, cioè il residuo, era 39,6 mg. Al terzo è stato ritagliato dall'altra metà leggermente più grande ancora 14,2 mg che tutto sommato ha portato a 53,8 mg globale. Che io sappia queste incongruenze non sono mai state giustificate. L'unica cosa è che non sia spiegato bene la faccenda che uno dei tre avesse due pezzettini. I campioni vengono poi spediti in tre laboratori in Arizona, ad Oxford e a Zurigo. Dopo sei mesi vengono annunciati i risultati in una conferenza stampa il 13 ottobre 1988 dal cardinale Ballestrero. L'intervallo di data calibrata assegnato al tessuto sindonico con livello di confidenza del 95% è tra il 1260 e il 1390 d.C. Secondo questo esperimento, dunque, il tessuto della sindone sarebbe di epoca medievale. Professor Baima, per concludere, in base agli studi scientifici effettuati fino a questo momento, la sindone è un reperto che risale all'epoca medievale? Le indagini biologiche portano ad escluderlo radicalmente. È un reperto che risale ai tempi di Cristo? L'ipotesi è vista favorevolmente dalla medicina legale. Raffigura un uomo crocefisso nella Palestina dell'anno zero? Ebbene sì, nell'anno 30 in realtà. Don Roberto Gottardo, presidente della Commissione Diocesana della Sindone, qual è la particolarità di questa ostensione? I motivi che l'hanno ispirata, in particolare il bicentenario della nascita di Don Bosco, che ha fatto un po' emergere l'idea, la possibilità di questa ostensione, visto che si tratta del santo che probabilmente ha segnato più profondamente la Chiesa di Torino e in questo senso anche la città di Torino. Ecco, ma come mai la Sacra Sindone viene esposta solo ogni 5 anni? In realtà non c'è un periodo fisso dopo il quale si proponga un'ostensione, si realizzi un'ostensione. Le occasioni possono essere diverse, le motivazioni diverse, anticamente erano più legate alla famiglia, alle ricorrenze o alcuni momenti importanti della casa reale Savoia, quando è stata di loro proprietà. Poi sono stati invece altri eventi ecclesiali, pensiamo al 1998, era il centenario della prima fotografia di Secondo Pia, il 2000 era il giubileo, nel 2010 fu invece una circostanza più che altro legata all'essere passati 10 anni. Sembravano già un tempo lungo in questi tempi moderni così veloci, non si immaginava ancora l'ostensione del 2015, e il 2015 viene appunto da questa ricorrenza del bicentenario della nascita di Don Bosco, quindi non ci sono periodi fissi. Ma come mai viene esposta solo per un periodo di tempo? Sì, il tempo della ostensione normalmente è limitato, anche perché certamente la luce non fa bene all'immagine sulla sindone. Quindi per preservarla. Don Roberto Gottardo, ma come mai il Papa ha deciso di visitarla? È partita da lui, è una sua volontà o voi l'avete invitato? No, c'è sempre un invito da parte del Vescovo custode della sindone. Normalmente il percorso parte da una proposta che arriva dal custode, che il Papa esamina, valuta e poi decide se concedere l'ostensione. Penso che i motivi che abbiano spinto il Papa siano semplicemente quelli che hanno motivato la richiesta, e cioè il bicentenario di Don Bosco, questo santo così importante. Le persone che hanno seguito il suo carisma salesiano sono diffuse veramente in tutto il mondo.